Ma secondo me è una cosa un po' che si introduce nella privacy dei dipendenti. Io considero gli amori aziendali una grossissima scocciatura, anche perché uno ha il grande privilegio di non essere a casa sempre con la moglie, va in ufficio, che si fa l'amante in ufficio, così ogni volta la incrocia, la vede, la macchinetta del caffè, eccetera. Lei pensi che attorno alle grandi aziende, l'Interland milanese, hanno costruito i motel per permettere ai dipendenti di andare a scopare il pomeriggio quando escono dal lavoro. Io trovo una cosa ossessiva quella degli amori in ufficio, degli amori aziendali, mi fanno ridere, e quindi non condivido la cosa della Richmond, però poteva essere un avvertimento, poteva essere un consiglio, una moral suasion e non un'imposizione, mi sembra eccessiva, ecco.